известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I have come to Asia as my first trip as Secretary of State to convey that America's relationships across the Pacific are indispensable to addressing the challenges and seizing the opportunities of the 21st century. Questo è il messaggio solenne di amicizia, di rispetto, anche di empatia che Hillary Clinton ha rivolto al Giappone e più in genere ai paesi asiatici che la ospitano o si accingono a ospitarla in questa sua prima missione da segretario di Stato. È stata molto chiara, ha detto: sono qua per prima di tutto rappresentare, dare senso all'importanza che la nostra nazione, che l'America attribuisce ai rapporti con il lontano Oriente come partnership indispensabile per vincere le difficili sfide che ci aspettano. E mentre Hillary è in azione in Giappone e un'altra emissaria dell'amministrazione o comunque della rappresentanza ufficiale americana, ovvero il numero 3 del potere americano del 2009, Nancy Pelosi, è invece in movimento per la città di Roma dopo l'incontro con Silvio Berlusconi. Barack Obama a sua volta è appena montato su un elicottero, vecchio elicottero facciamo notare, poi più tardi approfondiremo l'argomento, che lo porta alla base dove l'Air Force One è già pronto con i motori caldi, andrà a Denver e a Denver metterà la famosa firma finale alla legge di stimolo economico, il pacchetto da 787-89 miliardi di dollari con cui l'economia americana prova a trovare nuovi stimoli. Ma la questione delle signore americane in giro per il mondo ha attirato la nostra attenzione, abbiamo interesse e desiderio di approfondirla oggi e quindi la prima cosa che facciamo è collegarsi con Tokyo, dove ci aspetta Stefano Carrer, che è il corrispondente dal Giappone del Sole 24 Ore, per capire, per approfondire un po' il senso di questa visita in un paese a sua volta con serie difficoltà e poi magari anche anticipare qualcosa sulle tappe che ci aspettano prossimamente nel viaggio di Hillary Clinton. Allora Stefano, buonasera. Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, come ha accolto, mi sembra con una sua personale temperatura interna, il governo giapponese assai particolare, direi quasi febbricitante, ci sono dei seri problemi, addirittura poi, come dire, di esteriorità, no? Che sicuramente sono poco graditi ai giapponesi in coincidenza con un appuntamento così importante. Sì, comunque la prima cosa da dire è che non è un caso che il primo viaggio all'estero del nuovo segretario di Stato americano sia iniziato da Tokyo. Non è un caso perché i giapponesi ci tenevano in modo particolare ad essere i primi, in quanto durante la campagna elettorale Hillary Clinton era sembrata attribuire maggiore importanza ai rapporti con la Cina. Aveva scritto un articolo per la rivista Foreign Affairs in cui effettivamente diceva chiaro e tondo che nel XXI secolo la relazione bilaterale più importante degli Stati Uniti sarebbe stata quella con la Cina, e a Tokyo si erano allarmati. In una casa durante la campagna elettorale avevano tifato almeno le sfere governative per McCain. Quindi la Clinton è arrivata e ha subito riaffermato la centralità dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone, che ha definito una pietra miliare della strategia americana. E in concreto con il ministro degli esteri Nakasone ha anche firmato un nuovo accordo che impegna il Giappone a favorire il trasferimento di 8.000 marines da Okinawa a Guam, l'isola del Pacifico sotto amministrazione americana. E Clinton ha anche colto l'occasione per lanciare un messaggio forte alla Corea del Nord: disponibilità a un trattato di pace ed aiuti economici, ma solo se Pyongyang rinuncerà in modo completo e verificabile al suo programma nucleare. La Clinton ha anche incontrato due famiglie di cittadini giapponesi che erano stati rapiti negli anni 70 dai servizi segreti nordcoreani. È stato un incontro molto commovente, la Clinton ha detto: io sono madre, sono sorella, sono figlia, quindi posso immaginare che tragedia familiare sia successa. Quindi Tony con Pyongyang sono piuttosto determinati e questo viene incontro a un desiderio giapponese. Inoltre la Clinton ha invitato Taro Aso, il premier in grave difficoltà politica in questo momento, a visitare settimana prossima Washington. Sarà il primo leader straniero a incontrare il presidente Obama. Bene, Stefano, quale di questi eventi così diversi tra loro ha colpito maggiormente l'attenzione del pubblico giapponese? C'è questa questione di Okinawa che so era una spina nel fianco, no, dell'opinione pubblica, naturalmente locale, dell'isola in sé stessa, ma dell'opinione pubblica giapponese più in generale. È una soluzione definitiva che si va trovando? Ma secondo me non è una soluzione definitiva, nel senso che viene suggellato con un solenne documento diplomatico che tende a impegnare anche i futuri governi questo trasferimento di truppe che in teoria è richiesto da decenni dai giapponesi per alleggerire le servitù militari su Okinawa. Di fatto però c'è un problema: da una parte gli Stati Uniti vorrebbero comunque costruire una nuova pista aeroportuale a Okinawa su un tratto di costa, tra l'altro anche di interesse paesaggistico, in cambio della chiusura di una base militare, di una pista aeroportuale che ormai adesso è situata in una zona molto urbanizzata e quindi disturba molto la popolazione. Dall'altra c'è la questione dei finanziamenti, cioè gli americani dicono va bene, alleggeriamo queste servitù militari su Okinawa, trasferiamo 8.000 marines a Guam, però ci dovete pagare la maggior parte delle spese. Quindi Tokyo si è impegnata a pagare fino a 2,8 miliardi di dollari per il trasferimento, che significa costruire case, strutture a Guam. Però l'opinione pubblica giapponese non è molto entusiasta della cosa, specialmente in questi tempi. Quindi la questione del riallineamento del dispositivo militare americano a Okinawa va avanti da almeno due decenni e quindi non è detta la parola definitiva. Però è chiaro che con un documento diplomatico firmato dai due ministri degli esteri chiaramente tende a impegnare i nuovi governi. Devo segnalarvi anche che sono appena tornato, tra l'altro, dall'hotel Okura, dove la Clinton ha incontrato il leader dell'opposizione, Ichiro Ozawa, che ha segnalato al segretario di Stato americano che lui intende che l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti sia una partnership tra eguali. Ozawa in passato aveva irritato l'amministrazione americana opponendosi all'impegno militare giapponese all'estero. E bisogna anche dire che il fatto che la Clinton abbia voluto incontrare il leader dell'opposizione segnala che, come dire, che l'amministrazione americana sta facendo un po' di hedging politico, certo, perché Ozawa potrebbe essere il nuovo primo ministro giapponese tra pochi mesi. E c'è una prospettiva elettorale imminente, se non sbaglio, no? Sì, nel senso che le elezioni devono essere tenute al massimo entro ottobre, però dovevano essere anticipate già a settembre, secondo quanto tutti si aspettavano. In questo momento però la popolarità del premier Aso è scesa sotto il 10% addirittura, per cui sarebbe un suicidio per lui andare per il Partito Liberal Democratico al potere quasi ininterrottamente nel dopoguerra, andare in queste condizioni alle elezioni. E l'ultima botta è venuta oggi dalle dimissioni del ministro delle finanze Nakagawa dopo le sue disavventure romane, certo, in cui è apparso ubriaco, assai documentate da queste parti. Va bene, molte grazie a Stefano Carrer. Vi ricordo tra l'altro che Hillary Clinton, in attesa del gran finale, insomma, di questo tour asiatico che si terrà a Pechino alle prese con il potere cinese, farà però tappa in Indonesia, in una Jakarta che sembra già blindata con migliaia di soldati e poliziotti per garantire la sicurezza della visita del segretario di Stato americano, in quello che peraltro è il più popoloso paese musulmano. Ci saranno incontri domani e dopodomani con il ministro degli esteri indonesiano, che si chiama Hassan Wirayuda, e verteranno sulla crescente importanza, sul peso sempre più rilevante appunto dell'Indonesia negli scenari del sud-est asiatico, ma si parlerà anche di nucleare iraniano, di guerra in Afghanistan, in questioni che hanno comunque una partecipazione con la definizione musulmana dei punti di vista. Nel frattempo, come vi dicevo, si dovrebbe essere conclusa la colazione di lavoro tra Silvio Berlusconi e la speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, in questa sua particolareggiata, approfondita e anche strombazzata visita italiana. Insomma, ieri in televisione abbiamo visto tanta Pelosi, abbiamo sentito anche alcuni discorsi forse fin troppo formali. Pare che oggi si arrivi con Berlusconi a toccare argomenti più pragmatici, di interesse bilaterale. Certamente si dovrebbe dire una parola finale sulla questione degli ex detenuti di Guantanamo, su cui già ieri comunque sono arrivati particolari piuttosto indicativi. L'Italia non dovrebbe entrare a far parte del programma di distribuzione dei detenuti inviati all'estero. Poi c'è la questione degli elicotteri, su cui scherzavamo in apertura del programma, perché insomma quello su cui è montato oggi Barack Obama per un presidente è un elicottero non presidenziale, è vecchissimo. Alcune informazioni ce lo danno databile addirittura agli anni 60 se non prima, ma che scherziamo? Chi non scherza sicuramente sulla questione degli elicotteri, come ben sapete, sono gli italiani che hanno una partecipazione al pacchetto di costruzione di questi elicotteri, il cui contratto però è stato improvvisamente messo in discussione dagli americani, che lo ritengono troppo oneroso, non adatto a tempi di crisi, ma di questo parleremo tra un po', perché adesso invece, subito dopo un intervallo musicale, vogliamo continuare a parlare di donne. Siete fan di X Factor? Beh, questa signorina che canta qua sotto si chiama Melinda Doolittle e è arrivata terza, pensate un po', con questa vocetta, al più o meno corrispondente americano che si chiama American Idol. Ne risentirete parlare, ma sempre a proposito di signore, noi ci vogliamo concentrare proprio su di loro, in particolare su Nancy e Hillary, no? In giro per il mondo a rappresentare una nuova amministrazione. Abbiamo lanciato in orbita l'argomento su Facebook. Express yourself. Per tutto voglio sapere perché ridevate prima quando ho detto Pelosi. Ma cosa ridete? Dire, io lavoro e voi ridete dall'altra parte. Non... Però ti seguiamo attentamente. Sì, ma guarda. Comunque, tornando a noi, questa mattina abbiamo pubblicato sui nostri due siti Facebook che si chiamano avanti Redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, la bacheca e il sito di contatto della redazione, il seguente argomento di discussione, il seguente focus di discussione: la presidenza Obama espone gran mandato fiduciario per le sue protagoniste femminili, in particolare sul piano delle relazioni internazionali. Nancy Pelosi in visita all'alleato italiano, Hillary segretario di Stato impegnato in una delicata missione a Oriente. Vi piace questo approccio diplomatico che rafforza lo stile, peraltro già sancito, non so, da Madeleine Albright o da Condi Rice, la fairness, no? La leggerezza del tocco, come si dice da quelle parti, è un'arma in più in queste relazioni delicate, è un principio di cui anche l'Italia potrebbe avvalersi. Sentite un po' cosa avete risposto. Allora c'è Sergio che parte subito in quarta e dice: sarò pessimista. Oh. E poi articola naturalmente il suo ragionamento: queste ambasciatrici americane sono donne di calibro e temprate dall'esperienza, non miracolate catapultate allo sbaraglio. E poi getta il guanto della sfida, perché scrive: confrontiamo un loro curriculum con quello di una ministra italiana, entrambe sono laureate in giurisprudenza, e non fa i nomi, però rimane la suspense. Bello che anche Flavio, il primo del mio elenco, dice: penso le donne possono essere un'arma diplomatica in più per i rapporti tra gli stati. In Italia però non riesco a capire quale delle nostre leader possa farlo, forse Rosy Bindi, di sicuro non la signora Rosa Russo. Quindi c'è un pessimismo frusciante o è sciovinismo? Il confronto con l'Italia lo fanno quasi tutti, tutti a favore, appannaggio degli americani. Anche per Luigi si mantiene cauto all'inizio, perché dice: il nuovo approccio diplomatico degli Stati Uniti credo sia molto interessante. Poi sulla statura internazionale della Pelosi e della Clinton se ne può discutere. Certo, qualsiasi paragone con la nostra Italietta è sempre, scrive, tristerrimo, leggo testualmente. Mamma mia, che tempi di Italietta, a sentire i vostri pareri. Va bene, questo è un programma di esteri, però ragazzi. Federico, queste signore della politica americana sono molto preparate, hanno curriculum impressionanti, le nostre ragazze non sono lontanamente alla loro altezza. Mukeba, questo approccio è auspicabile anche in Italia, ma la vedo grigia, troppo maschilismo, troppe veline. Giulio, magari in Italia ci fossero più esponenti femminili, non solo nel governo, ma alla guida dei partiti. Vedi la Francia, in Italia dobbiamo uscire ancora dalle caverne. Michele, non ho dubbi su Hillary, il presidente ombra, quando all'epoca sedeva sulla poltrona di Obama, il marito. Se poi la tattica è distrarre il nemico facendo ricorso alla leggerezza e il tocco femminile, qualche anno di meno non sarebbe guastato. Ma è screanzato. Allora invece c'è Paola Francesca che è arrabbiatissima con noi, perché dice: mano leggera, ma di che state parlando? Ancora con gli stereotipi ghettizzanti del gentil sesso e delle donne con le palle. Non le manda a dire. Ma c'è una famosa copertina di Hillary con, adesso non vorrei insistere, ma con gli attributi che secondo me sintetizza la doppia strada, la doppia via. Poi prosegue Paola Francesca perché dice: le donne sono migliori nella gestione dell'amministrazione, le donne sono più brave in politica perché sanno pensare al futuro, perché non hanno competizioni al testosterone da mettere in campo. Allora, durissima la nostra Paola Francesca. Poi c'è Ettore che ci scrive da Davenport, quindi da lontano, da molto lontano, che dà le pagelle, direi perfette, perlomeno per la stringatezza. Pelosi in gamba, Rice qualche dubbio, Clinton non serve, ma un ottimo consigliere, tra parentesi, Bill. Massimiliano, io ho qualche dubbio sulla leggerezza del tocco femminile in politica, anzi penso che sia il contrario, cioè le mandano avanti in sostanza. Matilde, donne e uomini lavorano esattamente uguali, non mi piace sentir parlare di leggerezza del tocco. Roberto, il tocco femminile ottimo, vedete, pareri diversi, però uomini e donne, quindi alle donne non piace il richiamo, purché il modello non siano le casalinghe disperate. Mauro, sono perfettamente d'accordo e va bene così. E poi diamo questo ruolo di mediazione alle donne italiane, specie nelle questioni più delicate internazionali, scrive Ian. Giovanni, non è detto che l'essere donna trasformi le fondamenta ideologiche dell'amministrazione. Condoleezza Rice non ha certo avuto un approccio dolce, e tante altre. Giancarlo, sia la Clinton che la Pelosi non possono essere definite gentil sesso. La Rice ha portato avanti la politica di rottura di Bush, a prescindere dai modi, non si è certamente risparmiata nel lanciare bordate pesanti, e ci mancherebbe altro, il suo lavoro. Valentina, le donne italiane in politica non sono affatto delle My Fair Ladies, non mi pare che abbiano garbo, sicurezza e controllo. Paolo, in radio non lo direte mai, noi al massimo si potrebbe, come invece lo diciamo, stiamo dicendo qua. Noi al massimo si potrebbe mandare in giro Luxuria in perfetto Italian Style, ma potrebbe anche essere un'idea, secondo me. 360. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Se posso al volo, credo anche Cristiano che mette un po' la pietra tombale sul discorso, perché dice: in Italia siamo ancora al Medioevo, dove la donna ha a che fare con situazioni deliranti come le quote rosa. Qui si aprirebbe un dibattito che poi è una voragine. Una voragine. Allora, dalla Cina una notizia invece torbida, direi persino macabra, perché il Ministero della Sanità cinese sta indagando, leggo testualmente da un comunicato arrivato da Pechino, sui trapianti illegali di organi compiuti su 17 turisti giapponesi, e assicura che i responsabili verranno puniti. Di fronte a queste parole c'è sempre da aver paura. Turisti giapponesi? Che sono andati evidentemente a fare il trapianto in Cina. La situazione è molto complicata in Cina, perché effettuare trapianti su pazienti stranieri è vietato dal 2007, perché c'è penuria di donatori. Il bilancio è di 10.000 donatori contro milioni e milioni di richieste di trapianti. E a quanto pare, secondo l'agenzia giapponese Kyodo, questi 17 pazienti, tutti tra i 50 e i 65 anni, hanno pagato ciascuno $87.000 per trapianti di reni o fegato in un ospedale di Guangzhou. Quindi siamo nel sud della Cina. E infine in Italia la questione femminile, di cui abbiamo oggi parlato così nel suo terminale alto, se possiamo dire, conosce, come sapete benissimo, una crisi che arriva a sfiorare le istituzioni. I casi di violenza sono purtroppo all'ordine del giorno sulle prime pagine dei giornali. Altrove non va molto meglio, se è vero che è di oggi la notizia di una donna decapitata negli Stati Uniti d'America. Pare che sia stata l'idea del divorzio a far perdere la ragione a Muzammil Hassan, influente esponente della comunità musulmana, scusate, di Buffalo, New York, che ha decapitato la moglie. L'uomo, tra l'altro, era il fondatore di Bridges TV, una emittente creata per dare un'immagine positiva dei musulmani e degli americani. Ci è riuscito sicuramente alla perfezione. E due ragazze decapitate anche in una macchina trovata nella capitale del Messico, a Mexico City. Anche in questo caso la questione è già stata chiarita, una questione di droga. Altrove le si decapita, l'aria che tira anche altrove non è ottima. Musica. Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. E allora eccoci qua di nuovo con un graditissimo ospite in studio che vi presento. L'avevamo già annunciato sul sito Facebook e abbiamo già le vostre domande per lui, il servizio che è completo, come dire. Massimo Gaggi, inviato negli Stati Uniti d'America per il Corriere della Sera, autore di un libro che si chiama La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale, edito da La Terza e in via di presentazione nella capitale dopodomani alle 17.30 al Capranichetta, piazza Montecitorio, con la partecipazione di Pierluigi Bersani, Giulio Tremonti e Dario Di Vico. Il libro ve lo abbiamo già descritto e presentato nei giorni scorsi. Buon pomeriggio, Massimo. Buon pomeriggio a voi. Credo che in un certo senso il tuo libro faccia da pandan delle chiacchiere che faremo oggi a margine dell'attualità americana, perché tu l'hai intitolato La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale. Qui siamo in un tentativo di mettere un argine alla valanga. Esatto. Un tentativo che sta andando in scena in queste ore con voci di incoraggiamento e anche tante voci di scetticismo. Leggevo Samuelson su Newsweek oggi, che tutt'altro che come sono tanti i non convinti. Tu l'ultima atmosfera che hai colto prima di arrivare in Italia, negli Stati Uniti, qual era, soprattutto tra i colleghi, tra gli addetti ai lavori? Ci si crede, insomma? Ci si crede perché ci si deve credere, però c'è un enorme spavento, sia perché è una situazione senza precedenti e sia perché si sta curando una malattia, cioè quella dell'eccessivo indebitamento con altri debiti. Tutti si prendono atto che non ci sono alternative, perché nel momento in cui l'economia privata si è di fatto fermata con la gelata del credito, non c'è da fare altro che cercare di sostituire una parte di PIL che è letteralmente scomparsa, svanita nel nulla, con un PIL artificialmente prodotto dagli stati. Però è chiaro che questa è una ricetta che, parlando da italiani, zoppica; parlando da americani è una bestemmia, e quindi bestemmiano rendendosi conto che non hanno alternative. Perché se non altro il coinvolgimento è un procedimento che ha funzionato piuttosto bene. Il paese, come dire, è stato portato a temperatura, reso partecipe, credo con una certa maestria, dal presidente intubato poi in questo procedimento che, come dici te, è un tunnel alla fine del quale non si sa bene cosa c'è. Ma almeno dal punto di vista psicologico, la prima parte del lavoro, forse la più così teorica, è stata condotta. Che dici? Ci sta lavorando molto alacremente. Credo che dal suo punto di vista il successo sia inferiore a quello che si attendeva, perché lui si attendeva di avere un consenso bipartisan che non ha avuto, si attendeva di avere sulla stampa appoggi più convinti, mentre appunto, come diciamo adesso, lo scetticismo è forte. E anche quella tournée che è iniziato la settimana scorsa, andando nei luoghi dove la disoccupazione è più forte, ricominciando gli incontri, i town hall meeting con domande e risposte con gente del popolo, disoccupati, eccetera. La stessa cosa che farà questa settimana, andare a firmare a Denver in una delle capitali della crisi. Ha una certa idiosincrasia stare alla Casa Bianca, questo presidente, che dice? Sì, però poi lo paga, perché quando va nelle città della crisi e dice adesso torno a vedere cosa stanno combinando quelli a Washington, quelli poi gli cambiano le leggi all'improvviso, mentre Geithner è in volo verso Roma, gli cambiano le norme sui banchieri e lo costringono a precipitose correzioni di rotta. Quindi è un rapporto molto difficile quello col Parlamento, non c'è dubbio. Puoi approfondire meglio, anche per spiegarlo agli ascoltatori che spesso ce ne chiedono, come dire, il senso, questo tentativo bipartisan prodotto da Obama in questi primi giorni di governo, sia nella sua matrice, come dire, di auspicio, no? Che forse poi magari fra 3-4 mesi sarà già dimenticato e si sarà tornati a un fronteggiamento più tradizionale, sia nella sua pratica, ovvero una capacità di trovare veramente una trasversalità nella crisi. Ma è possibile in una condizione come quella della democrazia americana a livello di governo? Ma lui si era illuso che fosse possibile, perché appunto riteneva che il rapporto anche con McCain e con molti parlamentari repubblicani e la stessa gravità della crisi, anche il fatto che tutto sommato gli strumenti utilizzati nell'ultimo scorcio dell'amministrazione Bush da Paulson non fossero poi molto diversi. Stiamo parlando appunto di sostegno alle banche, sostegno pubblico alle banche, nazionalizzazione della più grossa società di assicurazioni, il primo stimolo fiscale varato nella primavera scorsa, anche se di dimensioni più limitate e con una filosofia diversa, soprattutto soldi nelle tasche dei cittadini, però più o meno eravamo già nell'ottica delle sovvenzioni per sostenere pubbliche, per sostenere l'economia privata, quindi certo. Sperava che questo fosse sufficiente, avendo tra l'altro di fronte a sé un partito repubblicano in ginocchio, per ottenere una certa collaborazione. Invece si è trovato un partito che mette comunque in questo momento davanti soprattutto l'esigenza di ricostituire una sua base politica solida, e fino adesso almeno il rapporto con McCain non si è ristabilito, quindi tutto quello che ha preso sono stati 3 voti di repubblicani in libera uscita al Senato e neanche uno alla Camera. Certo. E tra l'altro anche il Partito Repubblicano ha prodotto in questi giorni un volto nuovo con questo stile, no? un afroamericano a sua volta, sì. dagli aspetti piuttosto bonari, gradevoli, insomma un tentativo di cambio di facciata. Ci puoi anticipare qualcosa su questo personaggio? È un personaggio destinato a occupare i primissimi ranghi, magari anche in una visione a lungo termine elettorale? Ma adesso siamo in una fase in cui appunto si cercano personaggi nuovi. Oggi c'è anche una, direi interessante, ma forse più divertente che interessante, escursione di Ruckman sul Financial Times. Immagino una Casa Bianca nel 2012 con la Palin di nuovo, ma non perché è forte politicamente, ma semplicemente appunto per questo desiderio di cercare personaggi diversi. Si ritorna a ragionare sul governatore indiano nel senso proprio originario dell'India, della Louisiana. Jindal come il possibile personaggio nuovo della politica repubblicana. C'è sicuramente questo bisogno di individuare personaggi nuovi, ci si è resi conto che a questo punto l'elettorato americano è molto più composito e che i repubblicani hanno fatto errori gravi, soprattutto con le loro politiche sull'immigrazione, si sono alienati consistente fette dell'elettorato, e quindi però direi che siamo ancora in una fase di esplorazione, non mi pare che siamo ancora alle candidature. Dunque, nella seconda parte della tua presenza qui in studio potrei rispondere a una serie di domande, tra l'altro nutrite da parte dei nostri ascoltatori, ma io vorrei tornare invece un attimo al tuo libro, La valanga, dalla crisi americana alla recessione globale, per, come dire, coinvolgerti un po' in chiave personale. Tu, facendo l'inviato e avendo se non l'obbligo, la necessità, la voglia, comunque insomma tutti giorni davanti a un computer con un pezzo da scrivere, l'hai, come dire, registrata giorno per giorno. Mi dai una temperatura tua professionale, quando hai veramente colto che non stavi più registrando, no, le ondulazioni, le oscillazioni di un andamento comunque all'interno del mainstream, ma che stava succedendo veramente qualcosa. Qual è stato l'effetto speciale che ti ha fatto a quel punto drizzare le antenne, al punto poi da farti venire voglia di scrivere un libro? Ma è banale, ma la svolta vera è stata ovviamente quella di Lehman Brothers, non solo come fatto spartiacque in sé, ma anche perché appunto per la prima volta si è visto la gente che andava via con gli scatoloni, lo shock, qualcuno ha cominciato a scrivere c'era la fila davanti agli ATM, davanti ai bancomat, non era vero, però è cominciato quel clima psicologico, e poi in pochi giorni il congelamento del credito, la CNBC, principale delle televisioni finanziarie d'America, in cui questi commentatori, che sono personaggi peraltro con molto pelo sullo stomaco, che avevano delle facce smarrite e dicevano: ma non sappiamo se possiamo dirlo in diretta, ma qui ci sono dei consulenti finanziari che ci dicono che non dobbiamo più neanche tenere i soldi in banca, che bisogna prendere oro, ma non oro, investimenti in oro, lingotti da tenere in casa. Ci sono stati 4-5 giorni, panico. Quelli dopo la privatizzazione, quelli appunto della privatizzazione, della nazionalizzazione di AEG, che sono stati di vero e proprio panico. Adesso il congresso giudica poco di scarso successo il salvataggio adottato da Paulson. In realtà per alcuni giorni c'era stato sotto sotto il timore che addirittura si arrivasse non solo alla gelata del credito, ma alla paralisi del sistema dei pagamenti, cioè quasi al ritorno all'economia del baratto, cioè robe veramente mai viste prima. E questa è una roba che ha lasciato un segno. Poi dal momento in cui lo Stato ha garantito comunque depositi, si è ricreato un minimo di fiducia per quanto riguarda almeno le transazioni del giorno per giorno, ma quando si erano bloccati i crediti commerciali, imprese anche molto liquide, io avevo amici imprenditori con i quali ogni tanto ci si vedeva, e anche gente di società finanziaria abbastanza liquida, che dicevano: noi pur con una cassa molto consistente a questo punto stiamo tagliando tutti gli investimenti, tutte le spese, perché non sia mai a fine mese ci bloccano anche i crediti commerciali, dobbiamo dare ai nostri dipendenti la sensazione che non siamo in grado fisicamente di pagare gli stipendi. L'America ha cominciato a vedere nero. Ci risentiamo tra qualche istante dopo le notizie del traffico con Massimo Gaggi. Full of cash, just seen a big old ass. System on blast, cop just passed, just seen a big old ass. Grease don't pop from the stove, no foe. Moved on up, double shot, hit it, stand, fill my cup. Looter choke smoke in a big black truck. Sit out wild, I don't what the fuck. Like my rims ain't clean. How you gon' act like my neck don't bling? Haters get sprayed like Afro Sheen, but they don't ever really wanna pop them thang. Kang, Kang, Sugar Mane, Luda, don't go. And I stopped that I like pulled off so slow. But I'm out for the night, so pass that droll. Till daddy come home in a Cadillac Brome. Cadillac Brome? Now don't it sound absurd? Claim Collie Park where they flip them birds. Trick car alarms didn't bend them curves. Chop, chop, chunk it up, Batman herb. I got a big weed stash, pocket full of cash. Just seen a big old ass. System on blast, cop just passed. Just seen a big old ass. E dunque, eccoci tornati, ultima parte della trasmissione di oggi con Massimo Gaggi, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, che è in Italia per presentare il suo libro La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale, edito da La Terza, e oggi risponde alle nostre domande personali e a quelle che gli avete rivolto voi ascoltatori. Ma prima di tutto, Massimo, ti sottoporrei questa agenzia appena uscita, che prova così a mettere un punto in questa già famosa questione degli elicotteri. Sono assolutamente certo che sarà confermato il contratto in base al quale Finmeccanica fornirà i suoi elicotteri alla Casa Bianca statunitense, lo ha detto a margine della presentazione di un libro il sottosegretario allo sviluppo Adolfo Urso, spiegando che le indiscrezioni sulla cancellazione sono voci che in America nascono da tendenze protezionistiche. Abbiamo seguito in questi ultimi giorni quello che è accaduto riguardo al Made in USA. Secondo Urso non ci sarà bisogno di interesse intervento a livello politico, insomma non dovremo fare la nostra protesta ufficiale, tutto andrà per il meglio, i prodotti Finmeccanica sono i migliori sul campo. Come la vedi la questione? Tu non mi sembri proprio perfettamente certo. Beato della... lui che è sicuro, perché poi le voci, più che essere voci di corridoio, sono voci che vengono da voci importanti del congresso. Da un lato, vabbè, è comprensibile che in un momento come questo ci siano delle resistenze protezioniste che poi verranno, si spera, sconfitte, però insomma c'è il precedente della battaglia sul tanker dell'aereo da rifornimento in volo Airbus, Boeing, sono partite molto, molto complesse. Questo è un accordo che è stato fatto in epoca Bush, e la revisione di prezzo, vederla così da lontano è spaventosa e sembrerebbe giustificare le perplessità del congresso americano. In realtà, da quello che dicono le fonti industriali, il quasi raddoppio del prezzo deriva soprattutto da ciò che è stato chiesto aggiuntivo dalla Casa Bianca in termini di maggiore apparati di sicurezza, maggior potenza del motore, maggiore difese elettroniche, cioè bisogna vedere poi qual è la reale sostanza di questo e contare su questo orgoglio italiano. Che il prodotto alternativo, che poi sarebbe quello di Sikorsky, l'elicottero di Sikorsky, certo, che sicuramente costa meno, è anche molto più leggero e ha dotazioni molto più spartane, quindi credo che sia meno costoso ma anche meno adatto alle esigenze sofisticate di Casa Bianca, insomma, quindi staremo un po' a vedere, però certo è un brutto colpo, infatti mi pare che il mercato l'abbia registrato. Questo poi cambia un po' anche l'atmosfera, diciamo, anche rispetto ad altre commesse, che poi questa è una commessa molto di immagine, che però di importo relativamente limitato, perché il numero delle macchine è limitato, ma poi Finmeccanica partecipa a molte altre gare della difesa americana, certo, di elicotteri, aerei, di entità molto consistente. È un po' cambiato il clima. Dunque, ecco le domande dei nostri ascoltatori. Cominciamo da Luigi, che ti scrive: oltre al settore automobilistico, Obama, secondo te, pensa di sostenere altri settori, come ad esempio quello dell'informatica, telematica, tecnologia, oppure, sostiene Luigi, pensa di farsi bagnare il naso anche lì, andrà oltre, interverrà altrove? Beh, insomma, nel piano appena varato c'è già abbastanza per quanto riguarda intanto il rinnovamento della rete elettrica, che in America, essendo stata fatta molto prima, cioè, è anche molto, molto vecchia, come tu sai benissimo, cioè, al di fuori delle grandi città ci sono ancora i pali di legno. Quindi, con le scarpe appese. Esatto. E quindi ci sono parecchi soldini per questa cosa qui. E poi c'è la partita, sia quella delle energie rinnovabili, quindi l'eolico, il solare, quindi parecchi soldi da investire su quel fronte. A dire la verità, rispetto alle sue promesse, poi nel piano c'è relativamente poco, molti impegni, fa quasi presumere che questo sia soltanto la prima puntata di altri interventi di stimolo probabilmente altrettanto consistenti che avremo. Già ci si chiede se la seconda legge sarà alla fine di quest'anno o il prossimo anno, quindi. E poi sicuramente le autostrade dell'informatica, lì tra l'altro lui ha allontanato da sé tutte le lobby, però poi alla fine ha comunque nella sua squadra molta gente che viene dal mondo della Silicon Valley, non è un mistero che gente di Google gli è molto vicina, e quindi per esempio su tutta la questione della net neutrality è su una posizione politica che è molto gradita agli imprenditori della valle, quindi sicuramente ci sono altri settori. E vedevo proprio adesso, entrando qui da te, dando un'occhiata prima ai siti, che sta cominciando a premere anche sul fronte ferroviario, cioè per lo sviluppo di nuove infrastrutture ferroviarie, nuove dorsali nord-sud, quindi insomma l'idea di rilanciare un po' anche il trasporto, certo, sì, rilanciare un po' anche il trasporto collettivo su terra, su ferro. Dunque Antonella ci scrive: nessuno sembra mettere in relazione la crisi economica con le guerre iniziate da Bush. Tra l'altro questo è un leitmotiv di molti messaggi che abbiamo ricevuto, e in particolare quella dell'Iraq, che ha bruciato trilioni di dollari. Posto che nulla si crea, nulla si distrugge, non è naturale pensare che quelle risorse sottratte alla società americana siano sottratte a tutti noi? E sulla questione della guerra tornano in parecchi. Cristiano scrive: se l'onda lunga della crisi del 29 ha portato al secondo conflitto mondiale, cosa ci dobbiamo aspettare da qui a 10 anni? Oppure l'idea che Bush abbia furbamente creato un conflitto per muovere l'economia e ora che questa è sprofondata Obama creerà un conflitto più ampio per porvici rimedi? Cioè, da parte dei nostri ascoltatori evidentemente una forte sensazione in questo senso. Cosa puoi il dire? Tema è molto interessante, però bisogna analizzarlo e non è facilissimo. Io penso anche di non essere la persona più competente. Dalle stesse domande c'è chi dice che la guerra è stata fatta per alimentare l'economia e chi, certo, dice invece che è stato un disastro, certo, per l'economia. Noi sappiamo benissimo che appunto le guerre distruggono ricchezza, però sono anche un motore di attività produttive. L'America è uscita dalla disoccupazione non con il New Deal degli anni 30, perché nel 38 c'aveva ancora una disoccupazione a livelli record, ma c'è uscita con è arrivata alla piena occupazione con il secondo conflitto mondiale, questo lo sappiamo. Non per questo dobbiamo ovviamente auspicare che ci sia una ripresa di attività belliche a quel livello per rilanciare le economie, però certamente c'è un'interazione. Poi bisognerebbe valutare anche, come altri hanno sostenuto, che la guerra dell'Iraq fosse stata, avesse avuto come obiettivi non quelli della diffusione della democrazia o rimuovere un dittatore, ma il petrolio. Quindi anche lì, se questo fosse vero, ci sarebbe da fare dei ragionamenti di tipo economico, anche uno scenario diverso: tenere aperto o non tenere aperto lo stretto di Hormuz, cosa avrebbe significato se un bel giorno il conflitto Iraq-Iran avesse portato alla chiusura di Hormuz. Possiamo discutere all'infinito, molto lungo. Infine generalizziamo le diverse domande sulla questione dell'auto. Tu la lavori, la percepisci dagli Stati Uniti, come facilmente puoi immaginare. La discesa in campo di Fiat, no, ha coinvolto molto anche il pubblico italiano, vuole capire se è stata una mossa astuta, se è stata una mossa imprudente. Nancy Pelosi ieri ha parlato di Chrysler in termini un po' disarmanti, definendone il management in modo assai poco complimentoso. Cosa puoi dirci? Come giudichi quello che sta succedendo? La battuta di Marchionne in una delle interviste che ha fatto ai giornali americani è stata abbastanza chiara, ha detto: noi stiamo giocando un biglietto della lotteria. Ecco. Cioè, come dire, può andare bene e può andare male. È chiaro che la Chrysler è in questo momento l'ultimo degli 11 grandi gruppi mondiali dell'auto, quella che sta messa peggio. Le sue possibilità di sopravvivenza sono abbastanza scarse, comunque ha una vulnerabilità che altre società che stanno messe malissimo, General Motors e Ford, non hanno, cioè quella di non avere modelli di piccole dimensioni e di basso consumo. Perché? Perché Ford e General Motors, avete detto chissà quante volte in questo periodo, hanno i loro impianti europei, Chrysler non ne ha e quindi prenderebbe questa tecnologia dalla Fiat. La Fiat è in una posizione da questo punto di vista molto favorevole, perché è l'unica dei grandi gruppi che non è presente negli Stati Uniti e quindi può dare questa tecnologia senza fare concorrenza se stessa. Detto questo, quindi, diciamo, le ragioni per andare ci sono. Che il partner possa stare in piedi, possa sopravvivere, è tutto da vedere. Va bene, sigla. Allora, grazie a Massimo Gaggi, che è stato con noi buona parte della trasmissione. Il suo libro si chiama La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale. Lo presenta a Roma e poi? E poi tra un mesetto a Milano, credo, mi pare 12 di marzo, mi pare, poi a Firenze il 16. Bene, domani 17:30, Capranichetta, Piazza Montecicorio, con Bersani e Tremonti. E questa è la Jefferson di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi. La mail jefferson2@radio24.it, i due siti Facebook ormai attivissimi. Per parlare con noi usate redazione Jefferson 2 per partecipare ai nostri quotidiani dibattiti, al focus di giornata. Andate su Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself. Naturalmente ricordate di registrarvi. Il programma è disponibile 24 ore su 24 in podcast, altrimenti in replica a mezzanotte. La diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo.